tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia. 800 24 00 24, il vostro numero verde per parlare di sport oggi, di questo pomeriggio così avaro di partite, ma che sta lasciando dei segni, almeno in divenire, perché la notizia è che in queste tre gare, una di queste tre gare è Inter-Novara e l'Inter sta perdendo in casa 1-0 con il Novara. Siamo al 28esimo della ripresa, il gol lo ha segnato Caracciolo dopo 11 minuti di gioco della ripresa, tra l'altro gol meraviglioso con un sinistro a giro da 20 metri. L'Inter era partita davvero fortissima, Novara ha contenuto le sfuriate nell'azzurra, all'Inter non gira neanche tanto bene perché al 35esimo del primo tempo ci poteva pure stare un rigore per un fallo, per un intervento di Garcia su Poli, Russo, arbitro di questa gara, non lo ha concesso. E l'Inter sta salendo il suo calvario, non riuscendo a sbloccare questa partita. Sneijder è in campo, si sbatte, si dà da fare, ha creato anche qualcosa, non sta nemmeno giocando male, anzi è forse il migliore dei nerazzurri, però viene da domandarsi se in una stagione come questa, in un momento difficile come questo, fosse proprio necessario cedere chi stava tenendo in piedi il centrocampo in questa stagione complicata, e cioè Thiago Motta. Bah, ditemelo voi. 800 24 00 24 00, come il risultato di Atalanta-Lecce, con l'Atalanta che ha colpito tutti i pali possibili ma non è riuscita ancora quantomeno a scardinare il bunker di Serse Cosmi. Il Catania invece sta danzando sul Genoa, che quando è in trasferta è davvero la banda del buco. 4-0 a Catania, che non vinceva una gara dal 18 di dicembre. Stasera, anzi adesso, tra poco, tra un quarto d'ora più recupero, ufficialmente porterà a casa questi tre punti. Inguardabile onestamente il Genoa, che non è mai esistito in questa partita. Catania che ha sbloccato dopo 7 minuti, fallo di Belluschi su Gomez, ammonizione compresa, rigore trasformato da Lodi, ad inizio ripresa, quarto e settimo la doppietta di Barrientos, al 17esimo Berghessio, e Genoa da trasferta totalmente inesistente. Questi dunque i parziali in Serie A, vediamo come va a finire a San Siro, ma vi ripeto, il Novara è in vantaggio 1-0 sul campo dell'Inter. Inutile stare a ricordare la gara di andata, che fu quella dell'esonero di Gasperini. Immaginatevi un po' se il Novara, ultimo in classifica, dovesse raccogliere 6 punti dei 16 che potrebbe avere stasera contro l'Inter. Vorrei però aprire la porta anche agli altri sport, perché c'è stato il rugby delle Sei Nazioni ieri e dobbiamo parlarne, con tanti telespettatori davanti agli schermi di Sky, mai così tanti per una partita di rugby su Sky. E vorrei parlare anche di tennis con Vincenzo Martucci, inviato della Gazzetta dello Sport ad Ostrava e nostro amico, per assistere a un altro calvario, cioè quello dell'Italia del tennis in Coppa Davis maschile. Ciao Vincenzo, grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno. 4-0, ma il confronto era finito ieri. Dovremmo combattere a settembre per restare nella pool che conta di Coppa Davis. Certo, il bilancio che si porta a casa da lì, dalla Cecoslovacchia, era un confronto difficile, ma non è positivo. No, certamente non è positivo, soprattutto perché Seppi ha avuto la possibilità di portarci sull'1-0. In quella situazione Berdych, che non è un cuor di leone, avrebbe avuto ancora maggior problemi contro Stepanek. Seppi ha perso al quinto, ma ha perso per un pizzico di coraggio in più, non perché Stepanek fosse veramente tanto tanto più forte di lui, e questo denuncia tutti i limiti di questo giocatore, che rientra in Coppa Davis dopo 2 anni di autoesilio, ma che ha dei buchi neri abbastanza importanti. Bolelli si sta riprendendo, ogni tanto da dei segni di ripresa, ma anche lui è sempre lì, il numero 135 del mondo. È una cosa molto triste per lui, non è assolutamente di quel livello, lo ha detto anche Berdy, che è veramente strano, è un giocatore di quella levatura che combatte per 2,75 alla pari con il numero 7 Berdych, che sia così lontano in classifica, e poi il doppio è naufragato totalmente, denunciando anche qui dei problemi tecnici, tattici, Starace, insomma, su queste superfici veloci non è competitivo, si sapeva. Bracciali da solo non è riuscito a opporsi a due ottimi singolaristi come Berdych e Stepanek, ma quello che preoccupa è il futuro. Esatto. Non abbiamo granché, abbiamo questi e basta, e a questi ci dobbiamo aggrappare sperando che poi i sedicenni, i diciassettenni, i vari Quinzi, i vari Donati, i vari Napolitani forse vengano fuori. Sì, infatti l'ottavo, te lo stavo per dire, la tua vena di pessimismo proiettata sul futuro. Ci restano le ragazze, per fortuna ci sono loro, però insomma, per un osservatore esterno fa specie, no? questo grosso solco che c'è tra il movimento maschile e quello femminile. Sì, ecco, è un grosso solco, però tutte le volte che parlo delle ragazze poi qualcuno mi taccia di anti-italianità. Io sono il primo tifoso dei nostri ragazzi e la mia vita migliora quando devo scrivere un pezzo in italiano piuttosto che andarmi a cercare la notizia di un cipriota o di un russo o di un ceco. Però obiettivamente fra i due movimenti c'è una grande differenza. Con tutto il rispetto per queste ragazze che danno il massimo, ecco, questo va detto, obiettivamente è un parecchio più facile fra le donne che fra gli uomini raggiungere un certo livello, perciò è ancora più eccezionale il risultato della Schiavone, perché lei non solo ha raggiunto un certo livello ma ha vinto Roland Garros ed è andata in finale l'anno dopo, e queste ragazze comunque hanno vinto 3 Fed Cup, ecco, come quelle punte lì le salverei. A livello invece medio-alto, secondo me anche lì potremmo fare molto molto di più, e anche lì non abbiamo ricambi, perché dopo la Errani che ha 24 anni, sì, noi non abbiamo altro. Ecco, dobbiamo chiederci un pochino dove sono i secondi, questo sarebbe importante a tutti e due i livelli. Dopodiché, sì, il livello maschile è molto ma molto più alto di quello femminile. Come indicazione vorrei solo dirvi una cosa. Dimmi, Vincenzo. No, non riesco più a sentire Vincenzo Martucci, riesco a sentirlo. Pronto? Eccomi, Vincenzo, dimmi. Volevo dirvi soltanto una cosa, come indicazione, che agli Open d'Australia, in finale, il biglietto della finale maschile costava più di quella femminile. Sì, sì. Continuiamo a sentire lo speaker. Intanto a San Siro, attenzione, a San Siro è entrato Forlan, non cambia il parziale, sempre 1-0 per il Novara. In questo momento c'è l'espulsione di un giocatore del Novara, Radovanovic, doppia ammonizione, immagino la seconda per proteste. C'è una punizione al limite dell'area per l'Inter, in netta zona Snyder. Sto rivedendo questo, quanto è successo in campo. C'è stata una spinta di Morganella su Nagatomo, proteste di Radovanovic che viene espulso, e dunque il Novara chiuderà in inferiorità numerica questa partita. Vediamo che succede con questa punizione. Però sempre su questa gara devo segnalarvi che mentre stavamo parlando con fallo di Morganella, leggera spinta da dietro su Nagatomo, in questo caso Russo ha concesso la punizione all'Inter dal limite dell'area. Siamo al 35esimo, ve la racconto in cronaca, vediamo come va. Proprio Snyder sul pallone vicino al vertice sinistro, posizione perfetta, 20 metri, posizione perfetta per il destro di Snyder. Devo dirvi che al 34esimo il Novara è andato vicinissimo, quindi mentre stavamo parlando con Martucci, è andato vicinissimo al gol del raddoppio con un tiro di Morganella e una grande parata di Julio Cesar a legittimare questo successo parziale. Parte Snyder con la punizione, la parata però di Wicani, e dunque si resta, punizione tirata in realtà non benissimo, si resta sull'1-0 per il Novara. Così come valgono ancora gli altri parziali, Atalanta che continua a premere ma non sblocca il risultato a Lecce, 39esimo di gioco in questo caso, 0-0 appunto il punteggio, e Catania sempre in vantaggio, ma qui la gara è ampiamente finita, 4-0 sul Genoa. Questo è ciò che sta succedendo sui campi di gioco. Vi dicevo, tra poco parliamo di rugby. C'è una, a proposito di calcio e di brutte notizie, perché ce n'è una anche per l'Italia del rugby, però le brutte notizie relative alla giornata di campionato arrivano in testa all'Udinese, che ieri ha perso, come sapete, ed è questo un tema di discussione principale. Vediamo cosa fa l'Inter, ma il tema di discussione principale di questa domenica. Ebbene, l'Udinese ha perso con il Milan, nel segno di Maxi Lopez, oggetto misterioso, giocatore così preso un po' per caso dal Milan, e nel segno del piccolo faraone Sharawi. Importante anche il modo in cui è arrivata la vittoria del Milan, secondo me, perché mi sembra una ventata di aria nuova sui rossoneri. Comunque, al di là di questo, l'Udinese ha perso non solo la partita, ma anche Di Natale, il suo bomber frattura il dito del piede destro, vediamo per quanto ne avrà, e soprattutto grave infortunio a Isla, anche ieri, guarda caso, il migliore in campo, giocatore che a me piace tantissimo, Maurizio Isla, però starà fuori per un po' per una lesione al collaterale del ginocchio destro con interessamento al legamento, quindi infortunio, ma si era capito subito, serio per il giocatore di Guidolin. Vero che stanno rientrando quelli della Coppa d'Africa e non sono giocatori banali, soprattutto Asamoah, però insomma l'Udinese perde un giocatore cardine per il suo gioco, per la sua squadra, per l'importanza che riveste in questo meccanismo bellissimo di Guidolin, che continua a funzionare, secondo me, attenzione, destro di Stankovic che finisce altro, sempre 1-0 per rinnovare a San Siro, meccanismo, dicevo, che continua a funzionare perfettamente, anche se l'Udinese a me, non so a voi, sembra un po' in calo fisico. 800 24 00 24, numero verde, avremo tempo fino alle 19 per parlare di tutti i temi della giornata, avremo tanti ospiti che ci aspettano, soprattutto a partire dalle 17 in poi. Adesso ci fermiamo per il traffico e poi il rugby con la brutta notizia per l'Italia del rugby di oggi. Serio l'infortunio anche a Castro Giovanni, che ieri, come sapete, è uscito contro l'Inghilterra, frattura ad una costola, ne avrà per 40 giorni, quindi fuori per un po' una delle nostre stelle, Martin Castro Giovanni. Quarantesimo, ancora 5 minuti più recupero per l'Inter per tentare quantomeno di pareggiare questa partita interna con il Novara. Intanto le cronache da San Siro dicono dei fischi per Ranieri, che al 19esimo della ripresa ha sostituito Poli, che era stato in effetti uno dei più vivaci del centrocampo, per mettere Forlan al rientro. Dunque, vi dicevo del rugby. Giacomo Bagnasco, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Dunque, vorrei farvi sentire, anche a te Giacomo, due interviste realizzate ieri da Dario Ricci con i nostri due protagonisti principali di questa gara. Partiamo da Venditti. Sì, sono molto contento di aver segnato, perché un'ala, diciamo, ha questo compito, no? Segnare mete. Oggi è successo, però peccato che non sia servita per portare a casa la partita. Comunque ne abbiamo davanti altre tre, di cui un'altra qui all'Olimpico, quindi lavoriamo e speriamo bene. Quanto può pesare un KO così bruciante, una grande occasione persa? Io spero non troppo, perché comunque mancano ancora delle partite importanti e non dobbiamo vederla così. È vero che ci eravamo proprio prefissati di vincere questa partita, di portarla a casa, perché comunque un palcoscenico così, l'Olimpico pieno, un clima del genere, comunque non ha neanche, diciamo, fermato i tanti tifosi, e quindi lo meritavamo noi come gruppo, lo meritava soprattutto il pubblico. Un messaggio proprio per questo popolo del rugby che si è dimostrato più forte della neve. Li ringrazio, sono stati veramente molto coraggiosi e spero che continuino così anche per le prossime partite. E dopo Venditti, l'altro nostro metaman, Tommy Benvenuti. Non è servito a niente se la partita alla fine non l'abbiamo vinta. E cosa posso dire? Tanta delusione, perché comunque la partita c'è scivolata un po' via dalle mani. E colpa nostra sicuramente. Gli inglesi non è che abbiano giocato il loro miglior rugby e di conseguenza è solo una colpa nostra, insomma. Qual è la lezione che rimane dopo questo KO? La lezione che rimane è sicuramente essere consci che per vincere una partita internazionale non basta essere davanti a fine primo tempo e rilassarsi, ma che comunque ci sono altri 40 minuti da giocare e sicuramente l'altra squadra ce la metterà tutta per vincere anche lui, e quindi massima attenzione sui dettagli, sulle cose. Un messaggio per questo popolo del rugby che si è dimostrato più forte della neve. Fantastici, e spero siano altrettanto numerosi, se non di più, anche all'ultima partita in casa. Questo era Tommy Benvenuti. Ci sono appunto i dati d'ascolto di ieri, partita trasmessa da Sky, 290.420 spettatori medi, 838.000 erotti, contatti unici, ed è miglior risultato di sempre per una gara del Sei Nazioni su Sky, per questo Italia-Inghilterra giocato all'Olimpico. Per il quale insomma ci abbiamo sperato dopo le due mete in chiusura di primo tempo, però la lezione, credo, Giacomo Bagnasco, sia che a questo livello gli errori li paghi sempre e li paghi tutti. Sì, è vero, d'altronde traversa di Sneijder, Giacomo, Inter che va vicino al gol del pareggio, traversa piena e palla che rimbalza vicino alla linea di porta, fuori dalla porta, ma l'Inter è sempre sotto 1-0, vai. Vediamo se Novara riesce a fare quello che non ha fatto l'Italia ieri, in sostanza sì. Vincere contro una squadra più accreditata. È vero che gli errori si pagano e, per dir la verità, li ha pagati cari anche l'Inghilterra nel primo tempo, sì, certo. Perché le due mete sono venute la prima su una serie di rimpalli, la seconda su un errore di Foden, anche se è stato bravissimo Benvenuti ad approfittarne, ed anzi proprio Benvenuti e Venditti erano i due giocatori italiani più giovani nel 15 titolare, e questo può essere un buon segno. In ogni caso era un'Inghilterra che molto rinnovata, ancora priva di una sua personalità, quindi con delle individualità sicuramente di valore, però era una squadra che si poteva battere, che oltretutto per una volta, devo dire, contro l'Italia non ha mai creato delle azioni veramente, veramente pericolose, veramente da meta, però ha giocato con un po' di mestiere in più e ha portato a casa la partita, anche perché il suo calciatore, che in questo caso era il più giovane in campo, Owen Farrell, ha fatto 5 su 5 nei calci, mentre i nostri calciatori si sono fermati a 2 su 5. Carlo, non per fare un'autocitazione, ma appena prima dell'incontro l'occhio mi era caduto su Bottes, che stava così riscaldandosi con una serie di calci. Quelli che ho visto io non ne ha centrato neanche uno. E Bottes è un buon calciatore, si alterna con Barton anche nel Benetton, ma evidentemente non era in giornata. Beh, già, come sappiamo quanta importanza abbiano i calci per una squadra come l'Italia. Indubbiamente, anche se ora l'Italia sta provando un po' a cambiare gioco, a essere più propositiva, a non difendersi solo, il che vuol dire che poi magari la difesa è meno impenetrabile di prima. Ci sono state anche alcune prestazioni, alcune giornate negative, ad esempio in parte quella di Maggi, non solo per l'errore che ha commesso sull'intercetto di Oxon, che è alla seconda meta consecutiva in questo modo. L'Inghilterra finora ha segnato due mete in tutto il torneo, sempre con Oxon, sempre con un intercetto, battendo la Scozia e l'Italia. Dopo la partita contro la Scozia, Parks, che si era fatto intercettare la palla, ci è rimasto così male che si è ritirato dal rugby internazionale. Insomma, credo che lui volesse ritirarsi a fine stagione, ma questa cosa lo ha moralmente distrutto, sì. È andata così, e per l'Italia era una delle migliori occasioni di quest'anno, perché ora si va in Irlanda, poi in Galles, e purtroppo rimarremo forse a discutere ancora prima di Italia-Scozia della possibilità di evitare l'ultimo posto. Sì. Un'altra cosa da dire, Carlo, è che Bottes è un ottimo mediano di mischia, qualche volta gioca mediano d'apertura, e stavolta Brunella ha scelto di rimetterlo all'apertura sostituendo Barton. Chissà cosa sarebbe successo se fosse entrato come mediano di mischia, ma forse all'inizio di una gestione nuova schierare una mediana completamente di origine straniera avrebbe anche attirato delle critiche. A proposito di critiche, Francia-Irlanda quella è stata interessante, ne ha parlato, guarda, oggi anche Luis Enrique, ovviamente allenatore della Roma, in conferenza stampa, che peraltro ieri era a vedere la partita all'Olimpico, ha detto lì a Parigi c'era campo ghiacciato -4 e la partita è stata rinviata, è stata sospesa dopo pochissimi minuti di gioco per preservare l'incolumità dei giocatori. Noi invece domani sera giochiamo a Siena a temperatura prevista -8. Sì, c'è da dire una cosa, Carlo, che il giocare nel gelo è un'assurdità, e il rugby non deve mettersi su questa strada, perché in tantissimi anni di torneo delle Sei Nazioni forse è la prima volta che una partita viene rinviata per motivi climatici, sì. Mentre erano state rinviate, ricordiamo, il morbo del morbo bovino in Irlanda, poi sempre in Irlanda c'erano stati dei disordini, però non c'erano mai stati rinvii, appunto, però sono solo 2 o 3 anni che ogni tanto si propongono delle partite alle 9 di sera, e si può capire che giocando alle 9 di sera in febbraio possa far freddo, febbraio, certamente, nel nord Europa possa queste cose freddo. Possono succedere. Detto questo è anche vero che nel calcio ci possono essere degli infortuni alle articolazioni, anche seri, ma nel rugby se una mischia non ha stabilità e si scivola, i giocatori rischiano letteralmente l'osso del collo. Certo. Quindi, a maggior ragione, su un campo gelato non conviene giocare. Non speriamo conviene di, che non, che, non, di non essere di nuovo messi in condizioni però di rinviare delle partite, insomma. È ufficiale, caro Giacomo Bagnasco, il Novara espugna San Siro 1-0, la rete partita segnata da Caracciolo, il gol partita da Caracciolo all'11esimo, e dunque colpaccio del Novara a San Siro. Puoi anche, Carlo, non dirmi il risultato del Genoa, purtroppo non te lo so già. 4-0, un tondo 4-0. È una squadra che in trasferta non esiste, è troppo fragile in difesa. E se sei così fragile in difesa, in trasferta di punti non ne fai. Esatto. Ed è già una buona cosa aver ricominciato a farli in casa. Sì, questo certamente. Nessun gol invece in Atalanta-Lecce, che è finita 0-0, quindi i tre risultati del pomeriggio sono questi. Ringraziando Giacomo Bagnasco, ve li ripeto, grazie. Atalanta-Lecce 0-0 come detto, Catania batte Genoa 4-0, i gol di Lodi su rigore, doppietta di Barientos e Berghessio, il Novara che fa il colpaccio a San Siro vincendo 1-0 la rete di Caracciolo, ricordo la traversa di Snyder, e nel finale, proprio negli ultimi secondi di partita, una girata da centroarea di Pazzini, grande parata di Wicani, e pochi secondi dopo Russo ha fischiato ufficializzando questa vittoria del Novara e questa crisi sempre più profonda, blu notte, nero profondo per l'Inter. Parliamone insieme se volete. Eh sì, Mondonico non vinceva a San Siro, mi segnala Giorgio De Luca dalla redazione, lo ringrazio, dal 1988 alla guida dell'Atalanta, 2-1 sui rossoneri, oggi alla seconda partita alla guida del Novara è tornata a fare questo risultatone che fatalmente mette in croce Ranieri, metterà in croce Moratti, metterà in croce l'Inter, si tornerà a parlare di nuovi allenatori, si tornerà a fare il nome di Capello, già molto gettonato, anche se Capello pare sia in Russia a parlare con l'Anzi, la squadra di Eto'o. Questo lo vedremo. Fatto sta che a questo punto, anche nonostante la sconfitta dell'Udinese, anche il terzo posto diventa di nuovo molto lontano per l'Inter, 36 punti contro i 42 della Lazio, che nell'anticipo degli anticipi di questa giornata aveva battuto 3-2 il Cesena. Il grande tema di questo pomeriggio, inutile nasconderlo, è questa disfatta nerazzurra, questa catastrofe sportiva nerazzurra segnata dal gol di Caracciolo dopo 11 minuti di gioco della ripresa. Per la cronaca, l'Inter era partita molto forte, guidata da Snyder, sempre più argomento del contendere, non voglio dire oggetto misterioso perché sarebbe una sciocchezza, però argomento del contendere. Snyder che ha colpito anche una traversa nel finale, che ci ha provato, che è stato tra i più vivi, di un Inter in cui a centrocampo si vede nettamente, si sente maledettamente l'assenza di Thiago Motta. Oggi ha giocato abbastanza bene Poli, poi è uscito per dar spazio a Forlan, sono piovuti i fischi di San Siro su Ranieri, insomma ambiente teso, e sono curioso di sentire insieme a voi tra poco l'allenatore dell'Inter come spiegherà questa sconfitta. Quanto al resto di oggi pomeriggio, scarna cronaca, date le sole tre partite, come sapete, tra rinvii e spalmature varie. Atalanta-Lecce finita 0-0, l'Atalanta ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscita a schiodare o a inchiodare il Lecce, che si è difeso con grande ordine, per la verità. Il Catania ha distrutto il Genoa da trasferta, che è quanto di più fragile esista forse nel calcio italiano. 4-0 ma passeggiando, settimo minuto il rigore di Lodi, fallo di Belluschi su Gomez, poi la doppietta di Barientos, quarto e settimo in apertura di ripresa, il gol di Berghessio al 17esimo. Questa è la cronaca di giornata, quella di ieri ci porta alla vittoria in rimonta nel segno di, come dicevo prima, del neoacquisto, dell'ex prigioniero dell'hotel di Milano, Maxi Lopez, che è entrato e ha dato un'altra faccia al Milan, e nel segno del piccolo Farone Sharawi, che credo possa diventare sempre più irrinunciabile per Allegri, anche in questa vigilia di Europa. Come sapete, toccherà al Milan mercoledì aprire le danze di Champions League per l'italiana, ricevendo un Arsenal in cui ieri sono arrivati di nuovo gli squilli del vecchio Henry, come sapete. 800 24 00 24, numero verde, vedo già prenotato Gianni da Parma, però prima voglio leggervi anche la classifica che vale nulla praticamente, con i Napoli Chievo e Bologna Juve, Napoli Chievo che si gioca domani, con la Roma che sempre domani sera 20:45 a meno 8 va a Siena, con Parma Fiorentina che è stata rinviata, con Bologna Juventus che è stata rinviata. Beh, fate voi cosa possa valere questa classifica. Milan 47, Juventus 45, Lazio 42, Udinese 41, Inter 36, Roma 35, Napoli Palermo 31, Cagliari Genoa 30, Fiorentina 28, Catania Parma e Chievo 27, Atalanta 24, Bologna 22, Siena 20, Lecce 18, il Novara non è più solo, raggiunge il Lecce a quota 16 in fondo alla classifica. Parla Montella, sentiamolo con Sky. Squadra che ha bisogno di giocare con ritmo alto, perché siamo una squadra molto tecnica, ci sono tanti giocatori tecnici, veloci, offensivi, e quindi necessariamente abbiamo bisogno di quello. Talvolta oggi siamo stati bravi anche a gestire la partita, cosa che magari in passato non c'era capitato così bene. Questo Vincenzo Montella, ricordo Inter un punto nelle ultime quattro gare, Lecce sconfitta, il bizzarro 4-4 in casa con il Palermo sotto la neve, poi le altre sconfitte, quella con la Roma e appunto oggi con il Novara. Inter più che mai sul banco degli imputati. Gianni da Parma, Roberto da Tortone, primi due ascoltatori di oggi. Buonasera Gianni. Buonasera, sì, io non volevo parlare degli aspetti proprio tecnici. Sì, prego. Ma del discorso della neve, cioè nel senso che vedo un gran montare di polemiche, addirittura siamo riusciti in Italia a fare delle tifoserie, favoriscono quella squadra piuttosto che l'altra, e non pensare invece al vero problema, cioè questi stadi che non sono più adatti, cioè quello di Bologna è tutto aperto, qui a Parma idem. E le società concentrate più a fare compravendita più o meno di giocatori, ma nessuna tranne la Juve, che neanche in prospettiva, è ovvio che è un discorso di qui a qualche anno, ha intenzione di risolvere questo problema, perché la neve d'inverno mi sembra una cosa naturale. Sì. E invece diventa un problema grosso. Beh, però quando anche gli stadi inglesi non è che siano chiusi, Cioè, qui si tratta comunque di. Allora, l'emergenza è reale, Gianni, tanto che ieri sentiva prima, è stata rinviata anche una partita del Sei Nazioni, cosa che mai era avvenuta per motivi climatici, e si giocava a meno 4 a Parigi in un impianto comunque molto moderno. Quindi l'emergenza in tutta Europa è reale, si può discutere e sarebbe il caso di farlo sulla possibilità di tutte queste partite in notturna infarciscono il calendario, e quello nei mesi invernali, cioè gennaio, febbraio, mi sembra davvero una forzatura, perché abbiamo una concentrazione di partite pazzesca. Quanto agli stadi coperti, certamente in Italia abbiamo bisogno di stadi nuovi, ma questo è scoprire l'acqua calda che dovrebbe scorrere sotto i terreni di gioco per tenerli in temperatura. Gianni, dica. Sono d'accordo con lei, però proprio non sento neanche, al di là adesso della neve, come obiettivo delle squadre quella di dotarsi, come fanno le squadre inglesi di cui stava parlando prima, di uno stadio di nominale, voglio dire, delle società. Si punta sempre sul discorso vecchio stile, cioè mi sembra un calcio che rimane all'antica per certe cose, e quando ormai è tutto moderno, tutto tecnologico. La gestione del calcio in Italia non è cambiata negli ultimi 50 anni, siamo fermi lì, gli impianti non sono cambiati e sono i peggiori, credo, nell'Europa che conta, nell'Europa moderna. Dunque i problemi sono quelli, ma non vedo neanche possibili soluzioni all'orizzonte. Questo è il discorso. Grazie Gianni, alla prossima. Roberto Tortona, buonasera. Sì, buonasera signor Genta. Io sono tifoso dell'Inter, sono molto arrabbiato. Mancherebbe. Penso che oggi sia la goccia che ha fatto traboccare il vaso della mia pazienza. Perché il Novara 6 punti su 6 con noi è una cosa incredibile, penso. Niente, al di là del gioco che proprio non si vede assolutamente, lo so che in questo paese non va di moda, ma secondo lei il signor Ranieri a questo punto, dopo una sconfitta così, non dovrebbe dimettersi come allenatore? Beh, insomma, siamo sempre lì. Un mese fa era l'allenatore che aveva determinato la risurrezione dell'Inter, adesso è un allenatore che dovrebbe dimettersi, e cambiare tre allenatori in una stagione mi sembrerebbe davvero eccessivo. Va bene che ieri Ranieri ha parlato di ciliegie, noi allenatori siamo come le ciliegie, uno tira l'altro, però da lì alle dimissioni mi sembra tanta roba. E comunque, dovesse anche rassegnare le dimissioni, fosse nella dirigenza dell'Inter, non le accetterei mai. Giusto andare alla fine di questa stagione con Ranieri, però il punto è interrogarsi su un futuro che io non vedo, di cui io non vedo le linee nell'Inter. Un mese fa eravamo tutti qui a dire Ranieri merita la conferma, merita di continuare il suo lavoro, oggi dovrebbe dimettersi. I dati parlano di un Inter che ha speso moltissimo nella rincorsa che ha compiuto, si è probabilmente illusa, l'ambiente si è probabilmente o quasi certamente illuso di essere rientrato nel giro scudetto. Io sono sempre stato molto scettico e lo sapete su questo punto, e adesso da squadra alla frutta qual è, da squadra sul viale del tramonto qual è, sta insomma, ha rifiatato e ha perso 3 partite su 4 con un punto nelle ultime 4 partite, certamente. Snyder è un argomento del contendere, certamente le condizioni della squadra sono estremamente precarie, quest'Inter non ha mai giocato bene a calcio, però a un certo punto aveva trovato una sua logica, adesso ha di nuovo smarrito anche quella e rischia seriamente di smarrire l'obiettivo minimo, l'obiettivo realistico, l'unico che è sempre stato realistico, cioè il terzo posto che vale la Champions League, che fa una grande differenza credo per l'Inter e per il suo futuro. Saluto Alessandra Bocci, inviata della Gazzetta dello Sport. Ciao Alessandra, grazie. Ciao. Come stai? Non c'è male, sta per parlare Mondonico, sono molto contento per lui, per questo risultato, per questo sacco di San Siro che chissà cosa provocherà nell'ambiente Inter. Però il Novara ha giocato una signora partita, in realtà oggi non so se l'hai vista, si è difeso. Sì, l'ho vista in TV, ero a casa. Che idea ti sei fatta dell'Inter? Ho visto, non so, forse è una mia debolezza, però ho visto un grande giocatore che è tornato, Wesley Sneijder, che ancora deve aggiustare la mira, e però insomma mi sembra che si sia visto chiaramente che l'Inter non può fare a meno di lui, perché probabilmente ha maggior ragione dopo che in questa stagione sono stati ceduti Eto'o e Motta. Wesley è veramente l'uomo di qualità. E anche credo che sia il leader di questa squadra, secondo me va adeguatamente motivato, cosa che non ha fatto a mio parere la società dall'inizio del campionato, perché sembra sempre costantemente sul mercato. Verissimo. E allora forse al di là delle sue pecche diciamo comportamentali, questo forse non è una cosa. Sai, è anche difficile essere lì sul piede di partenza ormai da moltissimo tempo, ormai esatto. Da moltissimo tempo. Sì, ma infatti dico, alla fine poi lui insomma, ma è difficile Alessandro anche essere messo in discussione avuto... dagli allenatori, messo in discussione da Gasperini e ora da Ranieri. Le parole di ieri di Ranieri sono state un po', condivido un messaggio che mi è arrivato prima, sono state un po', suonavano un po' come dire vabbè, adesso c'è Snyder che vada dentro e risolvi i problemi. È un po' difficile, sì, perché comunque nessuno, a parte forse a suo tempo Maradona, può risolvere i problemi da solo, soprattutto se è stato appunto insomma demotivato per lunga parte della stagione, perché gli è sempre stato fatto capire dall'inizio che lui era sul piede di partenza, forse perché, per carità, le società devono fare bilancio e lui è un giocatore giovane, ha 27 anni, ha mercato, però alla fine forse siccome sono ragazzi, voglio dire, sono ragazzi e alla fine risentono anche di questa situazione. Certo. Sentiamo insieme Mondonico con Sky. Ciao Mondonico, lei ha vinto la partita più difficile, non solo perché era giocata a San Siro contro l'Inter, ma perché delle tre che ha giocato fin qui come allenatore del Novara, praticamente la prima in casa e la seconda era in casa e ha preso solo un punto. Poi arriva a San Siro e fa il colpaccio. Citazione di Gianluca Di Marzio, perché ve l'aveva detto Gianluca Di Marzio. Il calcio per me non è così difficile, il calcio è una cosa semplice. Affrontiamo una squadra più forte, abbiamo dovuto difenderci. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna e abbiamo vinto Sanremo. Capita alle volte di partecipare al Festival di Sanremo e di vincerlo. Noi abbiamo vinto come Sanremo. Come Jalis siete stati? Ah, fai un po' te. Però ecco, per me il calcio è incomincia e finisce qui, tutto il resto. Vabbè, per dirla parte, con lei, gli indiani hanno battuto i cowboy, lei fa sempre questa citazione qua. Quindi... No, lì eravamo da un'altra parte, c'era anche Luca quando gli indiani battevano i cowboy. Adesso c'è Sanremo, adesso abbiamo vinto Sanremo, dai. Con un pizzico di fortuna. Va bene, Andrea Paventi. Hai capito, Alessandra? Mondonico che vince Sanremo, non è male neanche questa. Beh, può capitare, per carità, tutti possono vincere Sanremo. Credo che sia un momento di oggettiva difficoltà per l'Inter, perché al di là di alcune scelte forse troppo prudenti, forse un po' così dell'allenatore, soprattutto nelle partite precedenti, la squadra ha patito per il ridimensionamento che è stato imposto dall'inizio della stagione sul mercato. Secondo me ha patito anche perché è stato preso un allenatore che forse non era tanto adatto, però questa è una mia idea. Sì. Io credo che gli allenatori che arrivano dalla provincia... Come vedresti Capello su quella panchina? Malissimo. Malissimo. Adesso non vorrei attirarmi tutte le ire di mezza Italia, però Capello sinceramente con l'Inghilterra non ha fatto così bene. E chi segue l'Inghilterra, chi segue i grandi avvenimenti, non l'Italia ma le altre squadre, lo sa. Capello è stato un grande allenatore, un grande decisionista, un grande gestore, però io credo che poi alla fine le cose cambiano per tutti, quindi è inutile, non lo so, può darsi anche che magari prendendo all'Inter genererebbe una buona alchimia, sicuramente non potrebbe generarla al Milan, dove già non l'ha generata nella seconda stagione. Questo è sicuro. Io ricordo sempre, non perché io sia, come dire, una tifosa di Allegri, però ai tifosi che mi dicono bisognerebbe prendere Capello, ricordo che quando Capello è tornato al Milan è arrivato decimo. Allora bisogna sempre avere molto equilibrio. Io credo che Ranieri, tutto sommato, con i giocatori che ha, stia facendo un buon campionato. Sì. È difficile dirlo perché quando l'Inter è nella condizione di classifica in cui è difficile, mi rendo conto, però io credo che i tifosi, prima di accusare gli allenatori per la mancanza di novità tattiche o di così coraggio eccetera eccetera, dovrebbero anche vedere quello che le società mettono a disposizione degli allenatori. Sì. E quello che la sorte mette a disposizione degli allenatori. Certo. Perché poi ci sono di mezzo gli infortuni e tutto il resto. No, quindi io dubbio. Resto dell'idea che l'Inter possa agevolmente competere per il terzo posto, non di più. Lo penso anch'io, così rispondo anche a tale Luca da Seregno che invia un SMS. Sono ancora di questa idea, l'Inter può competere per il terzo posto. È chiaro che un andamento così sclerotico porta a dover versare in questa rincorsa sempre più energie, mi domando se l'Inter le abbia. Alessandra, parliamo un attimo del Milan prima di salutarti. L'ex portiere dell'albergo e il piccolo Faraone vincono la partita di Udine, che a un certo punto sembrava onestamente persa, tra l'evanescenza di Robinho, l'inconsistenza di Seedorf, un Milan che ha giocato un pessimo primo tempo. Entrano loro, cambiano risultato che conta sì, ma conta proprio per questo anche il modo come per i protagonisti. Sì, sì. Di questo risultato, perché danno la sensazione di un vento nuovo. Sì, infatti credo che sia proprio tutta una serie di, come dire, condizioni, situazioni che fa di questa partita una specie di pietra miliare della stagione del Milan. Poi non so cosa succederà. Credo che Ashraoui sia un giocatore buonissimo, molto bravo, che però gli si debba dare tempo di crescere e maturare con calma, cosa che purtroppo per lui non è stata data a Pato, perché Pato non era italiano. Sì. Pato era brasiliano, è stato pagato tanti soldi e a differenza di Al-Sharawi gli è stata subito posta addosso una pressione eccessiva, secondo me, una nomea eccessiva di uomo che avrebbe vinto il pallone d'oro, che poi alla lunga... Sì. anche se sono delle idee alla fine, Alessandro, che quelli bravi devono giocare a prescindere dall'età, con sì, magari proteggendoli dalle responsabilità. Sì, devono giocare nella condizione in cui, secondo me, forse Al-Sharawi non è adatto per fare 90 minuti in certe situazioni, forse Pato è un bravo attaccante ma non è un top player e comunque non era pronto a prendere il posto di Kakà, che era, quando è andato via dal Milan, un giocatore inarrivabile, e perdonatemi la punta di nostalgia. Sì, sì. Quindi io credo questo. Penso che la vittoria sia stata molto importante proprio perché è arrivata magari in maniera un po' immeritata, nel senso che il Milan ha giocato tutto un tempo orrendo. Sono le partite che fanno vincere gli scudetti, queste. Esatto, sì. Alla fine quella è la prova di forza della squadra che gioca male. Credo che Allegri un paio di settimane fa ha detto: bisogna vincere giocando male per vincere il campionato. È stato deficiente. È stato accontentato. Credo che volessi dire questo. Sì, lo penso anch'io. Non credo che gli faccia piacere vincere giocando male, però in certe situazioni, se tu vinci giocando male, dai, adesso una il Milan di forza, adesso il Milan deve vincere un grande confronto diretto, e dietro il prossimo angolo, come sapete, c'è la partita con la Juventus, perché quella è la grande pecca di questa edizione del Milan. Alessandra, io ti ringrazio. Grazie a voi. Alla prossima, un abbraccio. Grazie ad Alessandra Bocci, ciao. Sempre un piacere, inviata alla Gazzetta dello Sport. Stefano da Brindisi e Marco da Olbia, ascoltatore in linea, prima di fermarci un attimo. Stefano, dica. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, signor Genta. Mi abbassi la radio, sennò non sento. Grazie. Io sono un tifosissimo della Juve, vorrei intromettermi nella crisi di cui si sta parlando, questo argomento relativo all'Inter, con un'affermazione un po' provocatoria che comunque ha delle grandi dosi di verità. Vale a dire, vorrei dire agli interisti: togliamo i 5 anni di Calciopoli, che è finito. Negli ultimi 20 anni, poco più, che rappresentano la gestione del loro patron Moratti, queste situazioni sono state all'ordine del giorno per gli interisti, quindi non capisco la loro meraviglia. Quindi dire che comunque è una situazione normale per un interista e per una gestione, realmente sto dicendo, della società, dal punto di vista anche finanziario, degli sbocchi. Stefano, mi pare che il rilievo sia un po' eccessivo, perché non più tardi di 2 stagioni fa lei sa bene cosa ha fatto l'Inter. Lasciare stare la storia di Calciopoli, che certamente sul campo ha cambiato gli equilibri, però con Mourinho soprattutto, ma anche con Mancini, che era comunque un personaggio forte. Anche la società Inter aveva c'era anche Oriali che è andato via, e molti dicono questa è una delle ragioni di una sorta di sbandamento forte, violento dell'Inter. C'era un sistema diverso all'Inter. Adesso si è tornati un po' al passato, questo è innegabile perché anche la cronaca ce lo racconta. Marco, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. A lei come conduttore. No, volevo riferirmi a quanto detto da un vostro ascoltatore per quanto riguarda gli stadi in Italia. Sì. Che i presidenti pensano solo praticamente al calcio al mercato e non alle nuove strutture. Ci sono almeno altre 2 squadre, mi corregga se sbaglio, che oltre alla Juve, che ha già finito e portato avanti il progetto, che pensano ad un nuovo stadio, che sono Cellino per il Cagliari e Puzzi dell'Udinese, che la loro difficoltà è solo del tipo burocratico. Sì, cioè, tanto che Cellino ha detto: se non si parte io regalo il Cagliari, consegno le chiavi del Cagliari. È vero, esattamente. Questo forse in Italia è un paese in cui ogni cosa è complicata. Sì. E questo solo una piccola precisazione. Ma io credo che le istituzioni pubbliche poi io credo che l'intero sistema andrebbe gestito in maniera differente, perché si pensa molto al contingente. La Juventus è una società moderna dal punto di vista gestionale, dal punto di vista imprenditoriale, tanto che è riuscita, con le solite difficoltà, con i soliti ostacoli e con dei tempi alla fine non irragionevoli, a mettere in piedi qualcosa di veramente al passo con i tempi. Le altre invece sono lì che si arrabattano tra carte, scartoffie, polemiche, come lei sa bene. Insomma, io credo che il futuro sia quello che è stato disegnato ovunque, Credo anche che dalle nostre parti a questo futuro si arriverà tra tantissimo tempo, purtroppo, forse sono eccessivamente pessimista, ditemelo voi, 800 24 00 24. Tra l'altro poi ci attende un ospite con cui potremo parlare con massima cognizione di causa di questi argomenti. Ranieri sta parlando con Sky, sentiamolo subito. Gli allenatori, tutti, lui ha continuato e voluto andare via a tutti i costi. Bisogna chiederlo a lui il perché o il per come. Io ho insistito fino all'ultimo, dico: ma come? Qui hai la Champions League, dico tanto, hai firmato tutto, hai tutto il contratto fatto, aspetta ancora un po' e a giugno, se proprio vuoi, vai via. Non c'è stato nulla da fare, parlava tutti i giorni con me, tutti i giorni col presidente. Quanto è buono, giusto tenere un giocatore che da quando è aperto il mercato tutti i giorni ti dice che vuole andare via, che non vuole più restare, insomma, sai, poi tutto è giusto e tutto è sbagliato. Scusa, dicelo tu, Billy, come si convincevano i giocatori? Intanto vi dico, ho ascoltato nel periodo non collegato un'intervista a Ranieri, mi è sembrata piuttosto debole la sua difesa sulla partita di oggi. Gli hanno fatto vedere quell'episodio da rigore netto, secondo me 35esimo del primo tempo, Garcia su Poli, all'Inter non gira bene nemmeno da questo punto di vista. Però nel complesso difesa abbastanza debole, sapevamo che il Novara si sarebbe chiuso, mi mancava una punta, ho iniziato una punta sola che era Milito perché Pazzini non stava tanto bene in settimana e dunque ho preferito farlo entrare a giochi in corso, abbiamo colpito il palo il 13esimo della stagione, eccetera eccetera. Mi sembra comunque nel complesso una difesa abbastanza debole per spiegare una sconfitta in casa con il Novara e per spiegare una serie di risultati da un punto in 3 partite, in 4 partite. Ranieri di nuovo. Rimbalza male, scivolano. Però Ranieri, Zanetti, che è, spero di non offenderlo, il più vecchio della squadra, e sembra quello invece che si trova più a suo agio nel prendere iniziativa, nel dribblare, nel andare sul fondo a mettere cross. Insomma, mi sembra l'unico che davvero ci mette quello che serve per andare a vincere le partite. Ma io onestamente sotto questo profilo non posso dire nulla a nessuno, perché Snyder ha fatto tutto quello che c'era da fare. Le punte, pur con l'area di rigore piena di uomini, hanno cercato, hanno avuto le loro palle gol, insomma, come si fa a rimproverare questi ragazzi che in un momento difficile, per me il capitano è stato l'esempio, ma tutti gli altri non si sono tirati indietro, cioè io non li posso rimproverare per l'approccio alla gara, per quello che hanno fatto, per il senso proprio di spirito, di abnegazione. Non è facile quando tu stai in un momento no e ti si complicano le cose. Per cui adesso dobbiamo stare sereni e soltanto continuando a lavorare ne veniamo fuori come siamo venuti fuori prima. E questo è un momento dove non si riesce e non bisogna mollare mai, perché se no allora dai ragione al fatto che alle prime difficoltà un uomo che non ha determinazione molla. No, noi non molliamo, stiamo lì e continuiamo. Questo è Claudio Ranieri. Io saluto e ringrazio invece il presidente della Lega Calcio, Maurizio Berretta. Presidente, buonasera e grazie. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Certo, presidente, una domenica con 3 partite è record assoluto. Una domenica pomeriggio con 3 partite è record assoluto. Sì, ma d'altra parte diciamo è anche un fine settimana con molti record rispetto al maltempo, sì, e quant'altro. Cioè io credo che non si debba, diciamo, drammatizzare una cosa di questo genere. Mi sembra che peraltro piano piano tutti si stiano rendendo conto che ci sono, come dire, regole che riguardano la possibilità della Lega di decidere su alcuni aspetti. Il GOS che sta facendo, io credo, egregiamente il suo lavoro nell'interesse, diciamo, soprattutto della sicurezza generale. Un pezzo di decisione quando si arriva invece sul campo che spetta, diciamo, agli arbitri, ognuno ha delle responsabilità chiare, però credo che sarebbe francamente bizzarro pensare che una situazione eccezionale come quella che stiamo vivendo dal punto di vista del maltempo eccetera avesse una eccezione assoluta, come se il calcio vivesse in una campana di vetro. Questo, no, penso che piano piano questa consapevolezza si è fatta strada. No, ma questo è evidente, Presidente, la situazione è eccezionale, lo è in tutta Europa, parlavamo prima del rugby, ma è una partita di rugby del Senazione è stata rinviata, cosa che è accaduta ieri a Parigi, quindi di fronte alla situazione eccezionale non ci sono molte difese. Certo è che parlando di stadio e guardando al futuro, e lo sto facendo anche con gli ascoltatori, per quanto riguarda il calcio italiano vengono i brividi, perché è gestito esattamente come mezzo secolo fa. Ma d'altra parte gli stadi sono una battaglia che la Lega di A si è intestata sin dalla sua nascita nel 2009. Abbiamo ottenuto una approvazione abbastanza rapida di una norma molto ben scritta secondo noi al Senato. Questa norma si è poi arenata alla Camera, speriamo che possa essere rimessa nel binario giusto quanto prima. È chiaro che gli stadi, soprattutto stadi di generazione moderna e gestiti direttamente dalle società che li possono far vivere 7 giorni su 7, possono fare una grande differenza. Oggi sono la differenza competitiva che c'è tra il calcio italiano, il calcio inglese, il calcio spagnolo, soprattutto il calcio tedesco, che sta fortemente crescendo, perché stadi di proprietà e, ripeto, come dire, costruiti, realizzati e gestiti con criteri tecnologici all'avanguardia, assicurano migliori livelli di partecipazione e di sicurezza, possono rappresentare anche un contributo diverso a quello che oggi avviene in Italia per quanto riguarda i ricavi delle società. Certo. Presidente, adesso cambiando argomento le chiedo di rispondere alle dichiarazioni di Cellino e a quanto sta succedendo in questi giorni. Dichiarazione di Cellino: nulla da dire su Beretta come persona, ma è immobile. La Lega non funziona, ci vuole un presidente che porti avanti i programmi. Lei come risponde? Bueno, io non voglio veramente fare polemica con nessuno, la situazione è nota e se si trova in tempi brevissimi un nuovo presidente, io come ho sempre detto sono solo pronto a favorire un processo di questo genere. Bisogna appunto trovare il consenso sul nome per evitare che la Lega non venga gestita. Quello che mi sento oggettivamente di non condividere in maniera netta è il giudizio sul funzionamento della Lega. La Lega sta ottenendo dei risultati straordinari da ogni punto di vista, pensiamo che nell'ultimo anno, al di là della nascita della Lega in Serie A, abbiamo rinnovato un accordo collettivo, cioè il contratto dei calciatori, che era immutato da 6 anni e che ha fortemente riequilibrato il rapporto tra società e calciatori. Abbiamo venduto i diritti per i televisivi per il prossimo triennio con un incremento in valore importante, malgrado li abbiamo venduti durante una crisi economica che colpisce tutti i settori. Abbiamo trovato un accordo con le altre leghe per quanto riguarda la ripartizione della mutualità, cioè di quel 10% di diritti televisivi, che sono quasi 100 milioni l'anno, che la Serie A retrocede alle altre leghe. Siamo riusciti a ottenere dalla federazione il ripristino del secondo extracomunitario. Stiamo lavorando per rinnovare l'accordo promo pubblicitario con i calciatori. Francamente mi sembra che i fatti parlino da soli. Presidente, io le chiedo ancora questo: a queste 8 società che firmano questa lettera in cui chiedono di convocare un'assemblea per provvedere a trovare un suo sostituto, sappiamo, tutti sanno dell'incarico che ha avuto, tutti sanno qual è la sua posizione, a queste società invece cosa risponde? Io aspetto questa lettera. Finora mi pare, finora se ne è parlato sui giornali, ma non ho ancora riscontri. Mi sembra però un'iniziativa del tutto normale. Qualunque problema, compreso quello che potrebbero, più che legittimamente sollecitare le società che dovessero firmare una lettera di questo genere, va portata in assemblea che, secondo lo statuto della Lega è l'organo depositario di tutti i poteri. Quindi non c'è, da parte mia, nessun problema anzi, ripeto, favoriamo il più possibile qualunque elemento di, diciamo, di confronto. Penso che il punto chiave sia quello di costruire, diciamo, dentro la Lega una maggioranza, che deve essere una maggioranza di almeno 14 società su 20, per individuare una soluzione condivisa. Penso che sia, diciamo, il meccanismo è molto, come dire, chiaro e anche molto trasparente. Sì, sì. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Arrivederci. Grazie Maurizio Beretta, Presidente della Lega Calcio. Ci fermiamo per il traffico e poi vedo già ascoltatori prenotati. Antonio da Napoli, Ettore da Bari, 800240024 è il numero verde. A dopo. Allora, il killer dell'Inter di oggi, Caracciolo ai microfoni di Sky. Oh, sotto accusa. È che lui le sceglie, capisci? Cioè, certo. Ho capito che è un attaccante che vuole fare il sorpreso. Ma l'Inter sceglie i gol. È il sesto gol all'Inter, il quinto a San Siro e quest'anno ha segnato all'Inter e alla Juve. Lo deve comprare Moratti. Alla Juve con la maglia deve comprare Moratti. Corretta considerazione. Lui vada bene. Ti va bene, sì? Certo. Nebuloni, Moratti non sarà contento, ma insomma sicuramente invece Caracciolo ha fatto il colpaccio per l'ennesima volta. Massimiliano? Sì, insomma, se questo gol, ti chiedo, può riaccendere le speranze di salvarsi, visto che fino ad oggi avevate battuto soltanto il Parma e l'Inter all'andata. 6 punti su 6 con l'Inter, è abbastanza singolare questo dato. No, deve riaccendere le nostre speranze, perché gettare la spugna già adesso sarebbe troppo brutto. Noi oggi abbiamo fatto un colpaccio di cui avevamo bisogno, ci siamo riavvicinati un pochettino, adesso domenica abbiamo l'Atalanta in casa e dobbiamo ripartire cercando di fare punti anche domenica. Hai visto mai che stesso colore di maglia il Novara riesce a prendere l'abbrivio giusto? No, ma ha ragione Caracciolo, purtroppo per il Novara le partite con l'Inter almeno per quest'anno sono finite. Antonio da Napoli, buonasera. Buonasera a lei e complimenti. Grazie. Senta, corro il rischio magari di essere, diciamo, una settimana di ritardo a farle questa, prego, ma però prego, ci tenevo a sapere la sua opinione. Praticamente ho sentito subito dopo l'espulsione di Ibrahimovic, Galliani che si attesta di è stato uno schiaffo antisportivo. Io sono un appassionato, ma non sono così illuminato da capo per capire che cosa significa, diciamo, uno schiaffo antisportivo o uno schiaffo violento. Non riesco a capire. C'è un discrimine giuridico tra il gesto antisportivo e cioè la condotta antisportiva e la condotta violenta, che è un discrimine non da poco, perché incide sul numero delle giornate di squalifica. Il Milan ha sostenuto e continua a sostenere la tesi della condotta antisportiva, che porta a 2 turni di stop, mentre per la condotta violenta si va dalle 3 in su. Quindi è una questione giuridica che fa in casi come questo tutta la differenza del mondo. Spero di essere stato chiaro, Antonio. Mi scusi, ma io voglio ribadire, sì. Pronto? Sì, non è stato capire, c'è uno schiaffone antisportivo, almeno se io vado a denunciare i carabinieri, ho subito una cosa antisportiva, uno schiaffone, però è antisportivo, cioè non riesco proprio a capire, cioè, vabbè che in Italia La condotta di Ibrahimovic è stata valutata, a mio parere, correttamente come condotta violenta, dunque le giornate di squalifica sono state 3. Su un campo di gioco non vale la legislazione comune, quindi se lei si becca un ceffone per strada fa denuncia per aggressione. Su un campo di gioco ci sono le condotte dei giocatori, vengono valutate secondo parametri un po' differenti. Quindi la condotta antisportiva, ripeto, porta a un certo tipo di sanzioni, la condotta violenta a sanzioni di un'altra natura. Meglio di così non mi riesce, insomma, di spiegare. Mi spiace se non sono stato sufficientemente chiaro. Ettore da Bari, buonasera. Buonasera. Lei ha capito quanto ho detto? Sono riuscito a farmi intendere? Sì. Io innanzitutto le volevo fare i complimenti per la sua conduzione, che è sempre molto pacata, competente e obiettiva. Grazie. Poi sono un tifoso juventino e sinceramente ho visto la partita di ieri sera, quella col Milan. Mi è sembrata che la partita l'abbia persa nettamente l'Udinese, perché il grandissimo merito al Milan, diciamo, non l'ho visto. È stata brava nell'approfittare. Però l'Udinese, cosa ancora più grave, ha perso Isla, dicono agenzie, probabilmente per tutta la stagione, per questo grave infortunio al ginocchio. No, certamente, ma si diceva prima con Alessandra Bocci. Ranieri, Allegri ha ottenuto quello che voleva, cioè una vittoria tutto sommato immeritata, perché questo è successo ieri. Sì, infatti poi è stata anche strana, diciamo, presa dopo alla fine un calcio d'angolo, sì, diciamo, sì. Proprio la seconda cosa, poi io da tifoso juventino sto apprezzando tantissimo la stagione. Ho una piccola preoccupazione per i due recuperi, quelli di Parma e di Bologna, perché la Juventus mi sembra, a contrario del Milan, una squadra che soffra molto con le piccole, medio, diciamo, squadre. Sì, domenica scorsa col Siena, ad esempio, ha sofferto con il Cesena, ha sofferto con il Cagliari, con il Genoa, con il Bologna, con... ha perso punti, diciamo, questo mi lascia un po' perplesso. Altrimenti sarebbe già in fuga per la vittoria a braccia levate. Esattamente, diciamo. Ma la Juventus è una squadra non perfetta, come lei sa, Ettore. C'è una squadra a cui io ho sempre identificato questa difficoltà con l'assenza del giocatore che riesce a risolverti con una giocata di classe, di talento, riesce a risolverti da solo partite che si incanoniscono, partite di questo tipo. La Juventus non ce l'ha, o meglio ne ha uno in panchina che ha molti anni e che non viene mai fatto giocare, che si chiama Alessandro Del Piero, che viene dosato in maniera omeopatica da Antonio Conte. Alla Juventus manca il giocatore alla Ibrahimovic, in grado, quante volte al Milan è successo, partite bloccate, Ibra si inventa la giocata, segna 1-0 e da lì la partita cambia faccia. Io credo che alla Juventus manchi questo tipo di giocatore. La Juventus deve arrivare, potrebbe essere Vucinic, che però secondo me, che a me piace da morire, ma sta giocando una stagione sottotono, al gol la Juventus deve arrivarci meritandolo tutto, sudandoselo tutto, con grandi azioni corali. Questo è secondo me il limite di questa squadra, quindi lei ha ragione. Pietro da Bergamo, poi ci fermiamo un attimo. Pronto? Eccomi Pietro, sono qui, dica. Innanzitutto buonasera per la trasmissione. Grazie. Dica. So che a me pareva evidente che, a differenza della Juve e del Milan e della stessa Roma, anche della Lazio, l'Inter non ha un progetto. E questo praticamente è la causa di tutti i suoi mali, perché tra l'altro né Gasperini né Ranieri sono da considerarsi delle soluzioni a lungo termine. O se ha questo progetto è chiuso in qualche cassetto, non si vede. Se ha un progetto non si vede, non si capiscono le linee di questo progetto. Queste sono cose che stiamo dicendo ormai da molto tempo. Vorrei tornare anche con voi 800 24 00 24 alla notiziona di questo pomeriggio, così povero di partite ma così ricco di questa storia che sembra infinita della stagione dell'Inter, per chiedere a Fabio Monti, ringraziandolo, inviato del Corriere della Sera, che cosa ha visto e qual è la sua analisi. Ciao Fabio. Buonasera. No, ma l'analisi è anche abbastanza semplice, anche un momento in cui all'Inter non va veramente bene niente. Detto questo, quando è cominciato il secondo tempo l'Inter poteva essere in vantaggio sul rigore per quel fallo su Poli, però questo non risolve nulla. Mi pare che l'Inter ha fatto vedere che di non essere una squadra, insomma, mi pare che ognuno cerchi di giocare per sé, soprattutto Snyder, che ha fatto 12 tiri in porta, 12 tiri in porta sono tanti, ha preso la traversa, ha molto sbagliato, ha sempre insistito a giocare da solo. Milito in compenso di tiri in porta ne ha fatto uno, e quindi sono cifre che danno un po' l'idea di come la squadra sia un po' scoordinata, sconclusionata e faccia fatica veramente ad essere un gruppo che gioca insieme a calcio. Sì. Difficile anche, insomma, è anche comprensibile il comportamento di Snyder, è difficile la sua posizione, Fabio. È quasi normale che uno messo così in discussione si metta un po' in proprio. Questo certamente nuoce alla squadra. Oggi Snyder è stato il più brillante dell'Inter, se vogliamo, da un certo punto di vista, però è entrato a dire guardate che sono Wesley Snyder, sono forte e adesso ve lo dimostro. Certamente non facendo proprio questa impressione, no? Voler giocare per far vedere che lui è più bravo della compagnia, insomma. E questo può essere anche vero, però certamente questo non è stato tanto utile come avrebbe potuto essere la squadra, senza dimenticare che Mondoni è stato veramente bravo sì, nel sistemare la squadra, nel far vedere che quando si dice giocare all'italiana non è necessariamente un fatto negativo, anzi semmai è un fatto positivo, purché si facciano bene le cose, insomma. Mi è sembrata abbastanza debole la difesa di Ranieri, che ha ricordato le 13 pali colpite in stagione, che ha ricordato come Pazzini non stesse bene, dunque partito dalla panchina. Diventa anche difficile per lui gestire questo momento. Sì, no, ma ci sta tutto, le scuse possono essere, però è evidente che il gruppo è comunque alla fine di una storia e che la squadra ha dei problemi seri, insomma, ecco, che probabilmente in questa stagione in parte sono anche irrisolvibili, anche se poi se uno guarda bene il campionato dell'Inter scopre che l'Inter ha dato 6 punti al Novara, 5 al Palermo, 3 al Lecce, insomma, sì. Ecco. Tanta roba. Con un po' più di equilibrio è vero, sì, sì, che ha vinto alcune partite che forse poteva pareggiare, insomma, tenendo conto di tutto, però certamente si vede che è una squadra che ha perso l'equilibrio di una volta, insomma, ecco. E poi non gli gira più bene nulla, certo. Mi ricordo che l'Inter perdeva l'89esimo 3-2 contro il Siena 2 anni fa ed era riuscita a vincere 4-3, insomma, ecco. Sì, ha perso l'equilibrio in campo anche fuori, mi pare, però, Fabio. Sì, poi il calcio anche questo, insomma, ecco. Certo. Senti, ma un'ultima cosa, come lo vedi il futuro immediato e a medio termine? Perché adesso vale tutto, vale il nome di Capello, vale. Un mese fa si andava tutti, Paolillo compreso dichiaratamente, verso la conferma di Ranieri per la prossima stagione. È evidente che, insomma, si tratta di vedere dove può arrivare l'Inter, dove arriverà l'Inter. Sì, io credo che il futuro sia molto aperto e che la conferma non sia scontata, insomma. Anche se il contratto c'è, ecco. Anche perché secondo me poi dipenderà da che tipo di programmi ha in mente la squadra, soprattutto se dovesse restare fuori dall'Europa, quindi verrebbe certo pieno anche la questione del fair play finanziario, ci sarebbe la possibilità di investire anche pesantemente, sempre che il presidente lo voglia fare, o di rinnovare completamente il gruppo, e allora poi si tratta di capire quale può essere la guida tecnica migliore. Grazie Fabio, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Fabio Monti. 800 24 00 24, anche messaggi SMS 349 238 6666 o se volete i vostri pensieri sulla pagina Facebook di A Tempo di Sport o su Twitter. Ah, tra l'altro vi abbiamo invitato a inviarci delle foto dagli stadi per attraverso Twitter A Tempo di Sport o sulla bacheca Facebook di A Tempo di Sport, ne sono arrivate tantissime. Io ne ho sotto gli occhi una curiosa, che è di Viareggio Foggia 0-2 di Lega Pro. Sembrano Juventus e Milan in campo, fuori dal campo meno, perché ho contato 26 spettatori, ma forse mi sono sbagliato. Foto comunque molto, molto carina, mandataci da Ignazio Gatta. Franco, da provincia di Roma, invece è in linea. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sembra, chiarisco, sembra questo Viareggio Foggia, sembra Milan Juventus per il colore delle maglie, eh? Non certo per altri motivi, dica. Sì, buonasera signor Genta, complimenti per la sua obiettività, e proprio per questo vorrei, io ho giocato da ragazzo con la squadra giovanile dell'Udinese, sì, e da una decina d'anni sono veramente infastidito di vedere questa gestione Pozzo, vorrei sentire il suo parere. Perché? Perché? Beh, sì, su tre punti e tre personaggi che secondo me sono alla base di un andazzo nell'Udinese, sia nel gioco, nelle partite casalinghe esterne e nel non riuscire mai a dare una soddisfazione agli sportivi friulani che ormai hanno abbandonato lo stadio. Franco, mi sembra un po' eccessivo quanto sta dicendo l'Udinese, che gioca al massimo livello possibile. Quindi sì, però, signor Genta, io dovrei dire questo. Dico. Allora, il presidente Pozzo va a razziare in giro per il mondo giovanetti che poi rivende sistematicamente per gonfiare il suo portafoglio di qualcun altro del suo entourage. E secondo, Guidolin non ha, è un bravissimo sportivo, eccezionale da ammirare, ciclista, calciatore, eccetera, però da allenatore non ha il ponce per motivare dei giocatori che chiaramente sono lì per essere ma secondo lei l'Udinese è da scudetto, onestamente? No, assolutamente, ma proprio allora, perché invece che che coagulare attorno a un Sanchez ma guardi Franco, però a me pare che io non sono d'accordo su quando lei dice non sono d'accordo su nessuno di questi punti. Mi sembra che l'Udinese stia facendo un campionato straordinario, che segue un altro campionato straordinario che l'ha portata dove lei sa. Gioca un calcio bellissimo, gioca un calcio forse il miglior calcio in Italia. La gestione Pozzo, secondo me, è invece un modello virtuoso. Io penso questo, penso sia un modello virtuoso per un club come l'Udinese. Questa politica di, lei dice, razziare, io dico fare grandi operazioni di scouting in tutto il mondo. Prendere giocatori, valorizzarli e poi cederli sul mercato per garantirsi una sopravvivenza tranquilla. La politica udinese è questa, è sempre stata questa e con Pozzo sarà sempre questa, ma i risultati, beh, mi sembra che i tifosi dell'Udinese non possano certo dire di essersi annoiati o di essersi divertiti poco o di essere delusi da queste stagioni. Mi sembrano critiche davvero eccessive. Traffico, poi torniamo con Giuseppe dalla provincia di Milano. Buongiorno all'ascoltatore che si dichiara tifoso della Juventus e che scrive averne di Udinese. 349-238-6666, ma io torno alla voce degli ascoltatori di A Tempo di Sport e di Radio 24. 800-24-0024 è il vostro numero verde. Giuseppe, provincia di Milano, buonasera. Buonasera, dottor Genta. Dica. Ascolti, io sono un tifoso interista dalla nascita, quindi per carità, non sono uno che salgo e scendo sul carro dei vincitori a seconda delle convenienze. E chiaramente dispiaciuto della situazione di quello che si è venuto a creare, però io onestamente mi sono scocciato, mi scuso il termine, di continuare a sentire i miei colleghi di tifo continuare a dire Moratti vendi. Moratti ha fatto i suoi errori, avrà fatto la società, non è il massimo, anzi ne sta combinando una più di Bertoldo, però a questi miei colleghi di tifo che dicono Moratti vendi, mi devono anche dire a chi devi vendere. Chi anche, è quel pazzo? Giuseppe, anche oggi, sull'altro fronte, i suoi colleghi di tifo rossonero, o meglio, i suoi cugini, dicono certe volte Berlusconi vendi, l'abbiamo già sentita anche questa, trovo... Insomma, abbastanza normale che quando le cose non vanno bene, quando soprattutto i tifosi, quelli che ragionano con la pancia, vedono che non vengono scuciti i denari, allora dicono se non hai denari vendi il club, no? Esatto, ma purtroppo non i tifosi, è vero che sono tifosi, ma bisogna capire che Inter, Milan, società di, prima di essere società di calcio, sì, sono aziende e senza equilibri patrimoniali, finanziari ed economici si portano i libri in tribunale. Un altro anno dopo quello di Madrid, fatto con quel bilancio, Inter portava i libri in tribunale. Sì. Sono anche due esempi unici nel calcio mondiale di alto livello, cioè due imprenditori legati alla città che comunque mettono denari di tasca loro. Sono un caso unico. Se lei va a guardare come sono gestiti i club di alto livello in Europa, Barcellona, Real Madrid, e poi ci sono gli arabi, gli sceicchi o gli americani in Inghilterra, eccetera eccetera, qui si tratta di un modello gestionale molto differente, quindi con le sue peculiarità. Le faccio una domanda e una brevissima conclusione. Dica. La brevissima conclusione è: mi sta bene che dicano ma gli arabi comprano di qua di là. Il Malaga che appeal ha verso all'estero per comprare il Malaga e non venire in Italia? Domanda. Chi si ficca nel calcio italiano? Ci vuole un bel pelo sullo stomaco, ci vuole un bel coraggio per come hanno avuto gli americani di Roma, ci vuole un bel coraggio per immischiarsi nelle storie del calcio italiano, che sono uno specchio dell'Italia tra tutti i problemi, tutte le distorsioni, tutte le particolarità che conosciamo, no? Io capisco bene come un investitore possa andare in Inghilterra per ragioni sue, mentre il calcio italiano, così complicato nelle sue dinamiche, è molto difficile che possa attirare investitori stranieri. Giuseppe, io la ringrazio perché devo salutare Andrea Vianello da Rai 3, dall'Agorà di Rai 3. Ciao Andrea, grazie. Ciao a tutti, buonasera. Milanista o brasilianista, come ti definisci? Sì, anche milanista, milanista, poi brasilianista per cultura, perché ho studiato letteratura brasiliana, poi nel Milan ci sono un sacco di brasiliani, quindi le due cose si accoppiano bene. Sì, le due cose si accoppiano bene. Ieri non ha risolto un brasiliano, ma un piccolo faraone e un argentino che ha fatto per una settimana il portiere di un albergo milanese. Sì, molti problemi con la linea perché sto in treno, però il piccolo faraone, devo dirti, ci sta risollevando un momento di stagione molto complicato. Aveva iniziato benissimo, si diceva di lui Mirabilis, faceva l'allenamento, perché l'aveva fatto esordire in una delle prime partite, tanto che aveva segnato con l'Udinese, poi insomma l'aveva messo un po' nel... Ha messo un po' nel frigorifero di questi giorni, e nel frigorifero sembra sia caduto anche Andrea Vianello. Vi voglio dire un'altra cosa che può essere un ulteriore spunto di discussione. 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde. Oggi sono arrivate tardive e ovviamente sollecitate o imposte le scuse di Suarez, giocatore del Liverpool, uruguaiano del Liverpool, che ieri ha fatto la porcata che conoscete, cioè quella mano rifiutata ad Evra in Manchester United Liverpool all'andata, insulti razziali di Suarez ad Evra pagati con 8 giornate di squalifica, e ieri il sequel di questa puntata, vediamo quante giornate di squalifica, vediamo cosa succederà adesso. Oggi sul sito del Liverpool sono comparse queste lacrime di coccodrillo di Suarez, che ha chiesto scusa per quanto fatto ieri in maniera ovviamente premeditata e quindi particolarmente odiosa. Dall'Inghilterra arriva anche questa notizia, il primo ministro, non si dorme nulla, il primo ministro David Cameron ha deciso di convocare un vertice a Downing Street sul razzismo del calcio. Cameron e il ministro della cultura, media e sport terranno una tavola rotonda con discussioni con le autorità sportive e rappresentanze dei giocatori. Questo lo ha scritto il Sunday Telegraph. Convocazione che segue, provvedimento che segue, naturalmente quanto è successo ieri, quel gestaccio di Suarez, e che seguono le dimissioni, cosa ben nota, di Fabio Capello in settimana per la vicenda di Terry, anche se di questa situazione darei una lettura diversa, cioè Capello e la FA e la Federazione Britannica hanno preso entrambi il pallone che è rimbalzato lì per consumare una separazione che era credo voluta da entrambi. Dunque questa vicenda la trovo pretestuosa, quella di ieri ben più seria. In Inghilterra, dove non si dorme, Cameron pare abbia preso subito questa decisione, questo provvedimento. Claudio da Brescia, buonasera. Pronto? Pronto, dica. Sì, però sono appena entrato al supermercato e non sono più in automobile, ecco, mi avete chiamato. Fatto una bella spesa? Sì, devo comprare qualcosa. È in mezzo alla neve. Innanzitutto compleanno a lei, alla trasmissione. Grazie. E poi volevo celebrare un po' Pirlo, perché mi è sempre messo in disparte per l'oretto. Come che in disparte? No, non ne parla, cioè non ne parlano mai abbastanza, nessuno lo celebra come dovrebbe essere. Ma allora, se mi dà 2 minuti di tempo, io fuori vado. Io il tempo glielo do, capisco anche insomma il fatto che sia suo concittadino, e dunque, però insomma, sono anni che ripetiamo che è uno dei migliori giocatori del mondo, che è uno dei più forti giocatori del mondo. Io parlo solo degli altri, no, anche i mondiali, secondo me meritava il premio come miglior giocatore. I mondiali, l'arma micidiale dei mondiali, nessuno l'ha mai detto questo, o non l'ha mai visto, era stata Pirlo e Grosso. Sono andato a rivedermi le partite, è così. Ha fatto segnare un paio di mondiali, naturalmente quelli vinti, non quelli da pernacchie, sì, del Sudafrica. No, quelli vinti. Sì. E infatti, sono andato a rivedere le partite, ho sentito che quando ho fatto la dichiarazione Grosso dice: tu vai. Pirlo mi ha sempre detto: tu corri che io ti becco, sì, sempre. Sì, e il gol dalla Germania, dice: non so, ancora adesso non riesco a capire come abbiamo fatto a trovarmi. E mi ha fatto trovare gol. Poi Pirlo sa segnare. Si ricorda il gol con Real Madrid? Bellissimo. Sì, me ne ricordo tanti. Era un gol fantastico. Se lo facessero giocare un po' più avanti, anziché fare il centrocampista retrato. Guardi, Claudio, però se lo facessero giocare un po' più avanti non sarebbe Andrea Pirlo, e forse non si sarebbe costruito questo tipo di carriera, perché lei si ricorderà che agli esordi si vedeva subito che era un giocatore di grandissimo talento, ma era un trequartista tra molte virgolette normale. E la sua evoluzione pazzesca è avvenuta prima con Carlo Mazzone, che ha immaginato questo futuro per Pirlo, cominciando a proporne quel ruolo, e poi in maniera si è consacrato con con Ancelotti, che l'ha trasformato nel playmaker basso di un Milan che ha vinto tutto. Quindi mi sembra, insomma, lo facciamo volentieri sempre, mi sembra quasi inutile sottolineare la grandezza di Pirlo e l'importanza di Pirlo nelle vittorie del Milan, nelle vittorie della nazionale, insomma è ormai da anni, e nel campionato sta facendo la Juventus, perché è di nuovo il giocatore chiave di una squadra prima in classifica, salvo asterischi da recupero. Quindi che sia un giocatore straordinario, beh, possiamo ripeterlo da qui all'eternità, perché così è. Gigi Catania, buonasera. Sì, Carlo Gento, buonasera. Io sono un tifoso interista e volevo forse concludere il triste pomeriggio con una battuta. Dite che noi ci esaltiamo nei periodi di difficoltà, forse abbiamo quasi il gusto della sconfitta e diamo il meglio di noi stessi in queste occasioni. Ho pensato, sentendo Ranieri in conferenza stampa, anzi ai microfoni di Sky, quasi a un parallelo con Schettino che durante l'affondamento della nave dice vabbò, va. Quello insomma, il parallelo non mi sembra di gusto fantastico, sì, o comunque di impotenza. Ho colto che prelude evidentemente all'abbandono suo a giugno, non so che cosa, comunque all'incapacità di far fronte alla situazione che si è venuta a determinare, ma ho percepito questa sensazione. Sì, beh, la difesa di Ranieri è stata piuttosto debole, cosa che abbiamo già sottolineato. Un punto in quattro partite sono un bilancio che è lì da leggere, da analizzare. La rincorsa dell'Inter è un'altra parte di questa strana stagione nerazzurra. Il fatto è che questa squadra è arrivata a capolinea, che adesso è partito, ed è un, insomma, avete sentito prima cosa ha detto Ranieri. Thiago Motta, ho fatto di tutto per trattenerlo, però lui chiedeva ogni giorno di andare via, non è stato possibile. Dunque, in una squadra con equilibri già molto fragili, la partenza in questo momento di un giocatore che riusciva, almeno in questa stagione, a tenere in piedi un centrocampo che mi sembra il punto più fragile, più debole, più delicato, più vecchio, più consumato dell'Inter, è stata accusata, insomma. Quanto a Ranieri... sul suo futuro io non ho alcuna idea, ecco, non ho alcuna idea, perché non ho alcuna idea, ne parlavamo anche prima con Fabio Monti, di quali siano i progetti, i piani di ricostruzione. Tiziano, provincia di Catania, restiamo in Sicilia. Sì, sono di Mitello di Catania, sì. Volevo dire una cosa, come si fa a far abitare a una persona, un signor russo di Sora, che l'arbitro più scarso della Serie A, una partita così delicata che può dividere le sorti di una squadra sia per la Serie B come Novara, sia per la Champions League come l'Inter. Tiziano, mi sembra Marotta, se dice così mi sembra Marotta, eh? Non so chi sia l'arbitro, mi chiamo Marotta, Marotta è direttore generale della Juventus, che sa bene, la settimana scorsa per motivi analoghi si era lamentato del fatto che la Juventus meritava rispetto da capo classifica, eccetera eccetera. Insomma, Inter-Novara non mi sembra la partita più impossibile del mondo, più difficile, più tesa del mondo da arbitrare. Non so dare una valutazione precisa sul valore assoluto di Russo. Certamente oggi ci sta un rigore per l'Inter, possiamo leggerla. Quante volte abbiamo detto le grandi squadre sono tutelate, eccetera eccetera. Oggi l'Inter ha ricevuto un chiaro torto arbitrale in casa sua contro il Novara. Se volete, possiamo, interisti a parte, possiamo leggerlo anche come un segnale confortante. Certamente all'Inter non gira nulla dritto in questo periodo, perché quel rigore ci stava, ovviamente la partita sarebbe andata in un altro modo, eccetera eccetera eccetera. Fa parte di un episodio, è un altro anello di questa catena che sta strangolando la stagione dell'Inter. In questo momento nulla va bene, compreso Russo, che non vede un rigore solare nel primo tempo. Torniamo agli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Poi ci colleghiamo anche, speriamo che il collegamento sia più fortunato rispetto a quello che prima abbiamo tentato con Andrea Vianello, mi scuso, ma insomma, contro le difficoltà dei telefoni quando si viaggia in treno, si può far poco. Ci collegheremo con l'Africa, dove c'è Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport, che sta per assistere alla finale di Coppa d'Africa tra Costa d'Avorio e lo Zambia. Ma intanto ascoltatori, Marco da Massa Carrara e Riccardo da Milano. Marco, buonasera. Buonasera dottore. Dica. Due commenti. Vorrei riallacciarmi a un parere che ha espresso il mio predecessore nel sostenere la tesi che l'Inter e Moratti è l'Inter. Quindi Moratti non deve cedere l'Inter. È la storia dell'Inter. Moratti ha fatto l'Inter. Nei suoi 30 anni di gestione ha portato tanti trofei. Sì. Secondo punto è l'Inter, Moratti commette però molto spesso errori nella scelta degli allenatori. Il Ranieri è assolutamente non è all'altezza per l'Inter. Basta, Ranieri non è all'altezza dell'Inter, parliamone. Secondo me Ranieri è un allenatore che sta facendo bene con quest'Inter. È chiaro che dirlo oggi con un punto in quattro partite è impopolare, però non avrei visto altre soluzioni per quest'Inter, cioè non credo che con Capello, con chi volete voi, in una squadra chiaramente a fine ciclo, una squadra piena di problemi, in una squadra che non ha più benzina, in una squadra che deve rinnovarsi profondamente, nessuno sarebbe riuscito a far meglio. Anzi, io dico, ci fosse stato Ranieri all'inizio della stagione, probabilmente l'Inter, non dico sarebbe in corsa per lo scudetto, perché non lo sarebbe, ma comunque tanto le prove e le controprove non le abbiamo, però avrebbe mantenuto comunque un andamento più lineare. Ranieri è un allenatore di idee semplici, è un allenatore cui piace un calcio lineare, un calcio semplice, è molto bravo nel gestire comunque anche i rapporti in un gruppo di questo tipo. Non credo che nessun altro avrebbe fatto meglio con il viale del tramonto e con le ultime energie di questa squadra, in tutta onestà. Quanto al futuro, ripeto, non so se il futuro dell'Inter sia con Ranieri, nonostante un contratto che c'è già, o sia con qualcun altro, se Moratti abbia altre idee. Certo, ha idee molto particolari Moratti sugli allenatori. Comunque a Moratti sono sempre piaciuti gli allenatori un po' da immagine, un po' da vetrina, e dunque non sono così convinto che se Moratti ha voglia di ricostruire la squadra, se ha voglia di versare denaro, allora possa farlo con Ranieri. Riccardo da Milano, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Io volevo farle una domanda in relazione alla Juventus e volevo chiederle, secondo lei, per il reparto difensivo, il caso di Bonucci come vada interpretato? Cioè, un giocatore che un anno fa era perso in campo e senza un criterio e quest'anno è quantomeno facente parte della miglior presentabile difesa in campionato attualmente. Riccardo, la risposta in questo caso mi pare molto semplice, non so se è d'accordo. Semplicemente Bonucci, che non è una superstar, che è un giocatore su quale sono stati probabilmente compiuti anche degli errori di ipervalutazione. Semplicemente Bonucci gioca in un'altra squadra rispetto all'anno scorso. Lasci perdere il colore delle maglie, è chiaro che questa è un'altra squadra, no? No, ma io posso comprendere, ma voglio capire se Conte eventualmente abbia anche messo una specie di mentalità nuova anche in lui. Mentalità non saprei, ripeto, Bonucci gioca in una squadra che funziona, in una difesa che era in partenza l'evidente punto debole, almeno sulla carta di questa squadra. In una difesa che, in un complesso che funziona molto bene, con un centrocampo che riesce a tutelarla adeguatamente, eccetera, eccetera, funziona anche Bonucci. C'è Barzagli che sta giocando una grande stagione. Anche Barzagli non è Beckenbauer, però in una squadra che comunque funziona nel suo complesso, ecco che anche la difesa riesce a reggere. Chiellini, che l'anno scorso era stato a tratti inguardabile e che secondo me è un altro giocatore leggermente sopravvalutato almeno come centrale. Anche Chiellini sta giocando una signora stagione, così come tutta la Juventus. Semplicemente la Juventus è un complesso che funziona e dunque le lacune o il valore non straordinario di alcuni interpreti vengono metabolizzati da un complesso che funziona. Quindi il discorso per Bonucci mi pare molto semplice. Vedo un ascoltatore da Napoli, allora ne approfitto per farvi sentire. Oggi, come sapete, è stata giornata non solo di poche partite ma anche di conferenze stampa in numero quasi uguale, 3 partite, 2 conferenze stampa, una quella che ha preceduto la trasferta della Roma a Siena, in cui Luis Enrique opportunamente si è domandato: ma domani ci fanno giocare a meno 8, com'è che in Inghilterra, che in Francia ieri hanno sospeso una partita di rugby a meno 4? Ma la incolumità dei giocatori non pensa nessuno. Questo è il pensiero più interessante espresso da Luis Enrique. Conferenza stampa anche a Napoli, dove c'è una squadra e un allenatore in difficoltà come Walter Mazzarri, alla vigilia della ripresa della Champions League, in cui il Napoli tra una settimana, martedì l'altro, dovrà affrontare un'altra squadra che sta andando malissimo, come il Chelsea di Villas-Boas. Sentiamo cosa ha detto Mazzarri e poi parliamo con Antonio. Sono contento di tutto quello che sta facendo questa rosa, in base a quello che si è detto, in base a quello che ci aspettavamo. Domani dovrò cambiare per forza di qualche giocatore, non tanti, ma qualche giocatore, proprio per dare nuova linfa, anche perché il Chievo, che si è riposato tutta la settimana, che si sta preparando e ci farà una partita da duelli personali, 10 contro 10, che chi vince duelli la metteranno su questo piano, ho bisogno di avere anche giocatori più freschi. Così Mazzarri, che ricorderete all'andata fu sommerso da molte critiche, perché pure in periodo di Champions League, proprio a Verona con il Chievo, fece ampio ricorso al turnover, cambiò comunque una squadra che in quel momento stava volando in Champions e anche in campionato, e perse alla fine, perse 1-0 in quel gol di Moscardelli, e da lì cominciarono critiche: non si fa turnover in questo momento con un campionato ancora aperto. Mazzarri, a quanto dice, pensa al turnover anche per la partita di domani, che comunque per il Napoli è estremamente importante, perché si tratta di capire dove va in campionato questo Napoli, che pure in settimana ha perso un primo appuntamento con la finale di Coppa Italia, che secondo me deve essere l'obiettivo reale di questo Napoli. La sconfitta a Siena certamente rimediabile, però quella è una partita, Napoli-Siena, semifinale di Coppa Italia, sarà una partita cruciale per la stagione del Napoli, io credo. Antonio, lei come la pensa? Buonasera, buonasera, dottor Genta. Io innanzitutto penso che lei è un professionista, è una persona molto obiettiva. Grazie, dica. Sono qui a voce di questa domanda che gli ho posto già, diciamo, al girone d'andata, più o meno eravamo alla terza, alla quarta, non mi ricordo precisamente, e le chiesi. Napoli vinceva, andava bene, Mazzarri a me è sempre stato sui coglioni, questo l'ho sempre detto. E Napoli vinceva, io le dissi: dottor Genta, lei che è un professionista, visto che le radio locali che io ascolto... Antonio, sono... ma perché le sta sui coglioni Mazzarri? Vabbè, adesso le spiego. Le chiesi: ma Cannavaro e Aronica, sì, due elementi simili, cosa ci azzeccano in un Napoli così forte? E adesso poi man mano Aronica, diciamo che ha smentito un po' quello che io ho detto. Ma per quanto riguarda l'altro personaggio che a Napoli viene dalla stampa locale molto ipocritamente, giornalisti molto ipocriti e di basso livello, viene considerato quasi un padre eterno, visto che io in Napoli lo vedo sempre vivo di pane e Napoli, diciamo, no? No, spesso prendiamo quello perché il signor Cannavaro, profeta in patria, Antonio, profeta in patria, nella marcatura lascia non poco ma molto a desiderare. Guardi, e spesso si perde con lanci lunghi, non riesce mai a giocare palla a terra. Lei come vede questa difesa del Napoli? Pensa che fino ad ora ha fatto diciamo bene, è stato anche opera di un grande centrocampo che ci aveva Napoli, bene, e Gargano che faceva ottimo filtro, ma diciamo sicuro così. Ma Antonio, vale il discorso che ho appena fatto per Bonucci l'anno scorso: Aronica e Cannavaro comunque nessuno li metteva in discussione, non sono due giocatori straordinari, e questo sia chiaro. Così come è evidente che Cannavaro possa ricevere capiamoci bene, capiamo bene quello che dico, un trattamento privilegiato, essendo comunque un simbolo, un giocatore napoletano a Napoli, capitano, fratello, dico tanto fratello, tutto quello che volete. Non sono due superstar della difesa, non sono, fanno fatica anche ad essere due giocatori comunque di livello europeo. È evidente che in una squadra che funziona come funzionava perfettamente il Napoli dell'anno scorso, che mai ha avuto delle flessioni e mai nemmeno aveva avuto problemi di infortuni, allora tutto girava per il verso giusto. È chiaro che quando la squadra ha meno equilibrio, e questo Napoli ha meno equilibrio, allora cominciano a vedersi i problemi individuali dei giocatori e i limiti individuali dei giocatori. Siamo quasi in zona Cesarini per quanto riguarda il programma di oggi, 800 24 00 24. Poi dalle 8:30 alle 9 ci trasferiremo su altri argomenti, come sapete, col basket e con palla a spicchi. Chi ho in linea? Eccolo lì, mio amico Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport, nella sua riserva di caccia prediletta, cioè l'Africa. Ciao Filippo. Ah, eccoci, perché mi avete salutato, eh? Ah, grazie, sì. Perché tipo sento una valvola ogni tre, però sì. Siamo qua. Senti, raccontaci l'atmosfera innanzitutto, se ci riesci. Perché poi è la cosa migliore. Davanti a me ho un centinaio di tamburi avvolti da bandiere degli stati africani e un 300 ballerini. Niente, ha suonato un rapper che qui era molto considerato, Akon, e adesso prosegue lo spettacolo, che in realtà è cominciato già tipo da un'ora. La finale è prevista per le 8:30, Costa d'Avorio contro Zambia. Adesso entrano tante bandiere che corrono. E direte, questo è buono, la costruzione è spettacolare, lo stadio è bellissimo, fa caldo quasi come a Milano. Costa d'Avorio è super favorita. Sì, ce la fa lo Zambia, per cui tutti faremo il tifo a stracciare questo pronostico? Secondo me vince la Costa d'Avorio, perché è una squadra molto seria. Sono rimasto impressionato, l'avevo conosciuto, l'avevo intervistato un paio di volte, però l'ho visto in azione in conferenza stampa, da François Zaoui, l'ex giocatore dell'Ascoli. Mi ha fatto una grandissima impressione, la squadra è molto seria, non hanno preso neanche un gol. Lo Zambia gioca tutto sui ricordi. 19 anni qui all'Arco di Libreville è morta la migliore generazione di calciatori dello Zambia. Caluscia Buaria si è saltato perché era in Olanda e non è salito su quel volo, e oggi è qui come presidente della federazione. E tutta questa sono andati a mettere i fiori sulla spiaggia l'altro giorno, e giocano tutto su questo, sui ricordi, sull'energia positiva, sull'emozione. Tecnicamente non ci dovrebbe essere partita, però in Africa la magia è qualcosa da tenere in considerazione. Filippo, ti lascio alla partita, faccio fatica a sentirti, anche se questo spettacolo di bandiere è molto bello. Arrivederci. Grazie Filippo, alla prossima. Grazie a Filippo Maria Ricci. Dunque, Sudafrica Zambia, partita insomma impronosticata, impronosticabile, ricca di suggestioni, come sapete, ricordava ora Filippo Maria Ricci, che proprio in quel luogo a Libreville nel Gabon si inabissò l'aereo che portava la nazionale dello Zambia verso i mondiali del 94. Fu una tragedia, cioè la superga del calcio di quel paese. Era una squadra forte, quello Zambia. Questa tragedia viene ricordata, io credo, oggi nel modo più bello, con una finale su cui nessuno avrebbe scommesso una lira, non tanto per la Costa d'Avorio iperfavorita con tutte le sue superstar guidate da Drogba, quanto per lo Zambia, che ha solo un paio di giocatori che giocano in campionati peraltro di confine in Europa, uno in Svizzera e l'altro in Georgia. Quindi se c'è un'immagine di Davide contro Golia iperabusata è questa. Giovanni da Milano, poi Antonello da provincia di Nuoro. Giovanni, dica, buonasera. Sì, salve. Dica. Io volevo chiederle questo, una sua analisi, più che altro un parallelo, se era possibile, tra il Conte che quest'anno allena la Juve e tutto quello che è successo nel dopo Calciopoli. Ma mi spiego meglio, nel senso che è evidente che negli anni poi si è cercato di costruire, e effettivamente la Juve di quest'anno ha dei giocatori superiori rispetto a un anno fa e all'anno prima, ma proprio sotto un profilo della mentalità. Sì. Se noi guardiamo soprattutto un anno fa e due anni fa, i due ottavi posti, certo, anche con investimenti importanti, perché certo, comunque... Sì, sono stati commessi molti errori, è chiaro che quest'anno è cambiato tutto, la Juventus è partita subito forte, non ha mai avuto un reale momento di difficoltà. Quando avrà quel momento di difficoltà sarà interessante anche valutare la sua reazione, perché è fatale che ciò possa accadere. Giovanni, mi sembra evidente che fin qui Conte è promosso a pieni voti, perché ha saputo lavorare, ha saputo costruire, la sensazione che qualcosa sia stato comunque costruito, qualcosa di importante, e non è solo una questione di mentalità. Antonello, provincia di Nuoro, abbiamo ancora un minuto e mezzo, dica. Buonasera. Buonasera, volevo una sua opinione. Io sono un tifoso milanista. Sì. In pratica abbiamo perso tutti gli scontri diretti. Ah. Ho pareggiato, non mi ricordo adesso. Sì. Però non è che abbiamo fatti tanti punti. La prima vittoria è quella arrivata ieri. Sì. Proprio senza Ibrahimovic. Ma è un caso, oppure... Non so, perché Ibrahimovic ci risolve le partite, però quando arriviamo abbastanza con una squadra importante... Quando si arriva a una squadra importante, la giocata del singolo fuori classe può non essere così decisiva, anche perché si gioca contro squadre più attrezzate che quindi riescono a creare maggiori difficoltà al fuori classe di qui sopra. Io credo che, insomma, non si possa stare qui a perdere tempo a discutere Ibrahimovic e il peso di Zlatan Ibrahimovic nel Milan. È chiaro che è un giocatore molto condizionante. Quando ha Ibrahimovic esige lui stesso, per caratteristiche non solo emotive, non solo di testa, ma per caratteristiche tecniche, esige un certo tipo di gioco, esige determinati compagni, esige grandi spazi davanti, preferisce cavarsela da solo lì davanti, e quindi non gradisce moltissimo la presenza di una seconda punta. È chiaro che è un giocatore molto particolare, un chiaro fuoriclasse, che è fatalmente condizionante per la squadra in cui gioca, che ti fa vincere i campionati, e anche questo mi sembra abbastanza fuori discussione. Scendiamo da questo treno? Che dite? Benissimo, chiudiamo qui a tempo di sport per riaprire alle 8:30 Palla Spicchi e raccontarvi ciò che sta succedendo sui campi di basket. Per ora grazie a Giorgio Druca in redazione, a Pietro Lacorte in regia, più tardi. A tempo di sport.